Siamo in collegamento telefonico con Marco Martinelli del Teatro delle Albe, che ci parlerà del film Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi per la sua regia, tratto dal loro omonimo spettacolo teatrale che, dopo la presentazione in anteprima al Biografilm Festival, sarà in tour in varie località in Italia, ma non solo. Marco, ben trovato. Ecco, buonasera, ciao Federico. Partiamo chiaramente dallo spettacolo teatrale, Marco. Sì, lo spettacolo ha debuttato nel 2014. Era nato da una fascinazione per questa figura che è sembrata una figura esemplare rispetto alla politica, rispetto al vuoto di tante retoriche. E da lì il desiderio mio e di Ermanna di portare in scena sua vita agli arresti. Ovviamente per raccontare questa vita bisognava raccontare anche la storia del suo paese, della Birmania, cioè di una dittatura tra le più feroci e longeve della terra. E così è nato il lavoro, anche andando noi stessi a fare un viaggio in Birmania perché avevamo bisogno di immergerci in quell'Oriente. Lo spettacolo ha avuto tutto un suo percorso e anche una buona risposta sia di critica che di pubblico. Sì, il lavoro ha girato per più di quasi 3 stagioni e ha raccolto anche dei riconoscimenti, dei premi, quindi, e da lì anche proprio l'idea che noi accarezzavamo da anni, sognavamo da anni di approdare al linguaggio del cinema Sì. e a quel punto ci è sembrato che quel tipo di storia, quel tipo di apologo fosse proprio giusto per fare questo passaggio di linguaggio. Sì. Marco, come hai messo in relazione le due arti? Le due arti sono tanto vicine per quanto sono poi lontane, no? In certi momenti sono arti sorelle e poi invece ti accorgi che per tanti aspetti sono lontanissime. Io mi sono trovato a casa fin dal primo giorno sul set. Devo dire che è stata un'esperienza davvero entusiasmante, non, nessuna tensione, ma anzi proprio il piacere di raccogliere materiali, no? Come con una rete da pescatore per poi andare in sala di montaggio con tanta ricchezza da poter discernere e poter ricomporre poi nella stesura finale della sceneggiatura. E quindi davvero grande felicità, grande felicità. Sì. Allora, considerato che non si tratta di teatro filmato, volevo chiederti anche come è articolato il film. Ma infatti hai detto bene, non è teatro filmato, anche se la matrice teatrale emerge a un certo punto nel film, ma la chiave proprio in cui abbiamo rovesciato il teatro nel cinema è stato trovare un coro di bambine narratrici, perché sentivamo che solo loro potevano raccontare la storia di questa donna così eccezionale. Solo dei piccoli testimoni di innocenza, come queste bambine, potevano raccontare una storia fatta di violenze, soprusi, macelli, perché insomma i dittatori generali birmani sono stati tra i più feroci della terra. E quindi da lì la sceneggiatura ha preso una storia, una direzione molto diversa anche da quella dello spettacolo teatrale. Proprio per questo sguardo di innocenza, di queste bambine maestre e narratrici che prendono lo spettatore per mano e lo accompagnano in questo labirinto orientale. Ecco, proprio in questo senso ti chiedo anche il parallelo tra la figura di San Suu Kyi e questo coro di bimbe. Guarda, è un film davvero all'insegna del femminile. Ah, sì. Il regista è un maschio, la scritta è un maschio, ma l'ho fatto talmente in simbiosi, come faccio da tanti anni il mio teatro, insieme a Ermanna, che penso che sia veramente uno sguardo al femminile sul potere e sulla violenza. Sì. Non, penso che, oddio, il genere maschile ha dato in senso molto negativo alla storia dell'umanità. Possiamo salvarci solo se facciamo un patto di ferro con una femminilità, con una sensibilità diversa rispetto alle cose di questo mondo, se no non ci salteremo mai fuori. E quindi le bambine Aung San Suu Kyi dialogano tra loro proprio in questo senso, sono la sponda utopica per un futuro diverso dell'umanità. Visto che si parla del teatro e si parla del cinema, ma partendo dallo spettacolo teatrale, il rapporto, l'immedesimazione, ma anche l'anima che è riuscita a dare Ermanna a questo personaggio. Allora, se fosse qui Ermanna ti direbbe che è stata una grande fatica, perché abituata a costruire la sua figura di attrice sulla distanza, perché questo è il teatro, no? È costruire su una distanza. Invece trovarsi davanti una telecamera che ti scruta il primo piano, che ti entra nei pori della pelle, beh, insomma, per Ermanna è stata una prova che ha affrontato anche per amore nei miei confronti. Io dall'altra parte era 40 anni che sognavo di fare un primo piano Ermanna, quindi per me è stato solo godimento e felicità. Senti, una serie di proiezioni adesso, dopo dicevamo l'anteprima al Biography Film Festival, e saranno accompagnate anche dalla vostra presenza? Là dove possiamo sì, a me è già capitato, perché poi dopo il Biograph siamo stati già in diverse città italiane con il film. E a me capita, sai, io sono uno di quei registi teatrali che segue gli spettacoli fino alla 200ª replica e non capisco i miei amici colleghi, che alcuni fanno anche fatica a vedere la prima, ecco, invece io no, io seguo come un padre segue un figlio, insomma, fino alla 200ª replica. La cosa paradossale è che mi capita anche con il film, cioè faccio fatica a non seguirlo, come se in realtà potessi ancora cambiare qualche cosa. Non, a teatro possiamo permetterci di modificare delle cose fino alla 200ª replica, al cinema no, ma si vede che sono malato di questo senso di stare insieme alle mie creazioni. In chiusura, Marco, ci lasci anche i riferimenti web per seguire il calendario di proiezioni? Sì, il sito delle Albe è www.teatrodellealbe.com. Benissimo. Il calendario. Un abbraccio e a presto. Grazie Federico, un abbraccio a tutti. Ciao.